E zeta poi parti in quinta, parti in quarta, non ha importanza. Qualunque rima faccio ti sballa più di una sostanza. Se è un cesso, è di tradizione. Mi fai schifo tu, tuo padre, la tua generazione. Ne abbiamo sentite di robacce sul tuo conto. Tipo che entra al Foot Locker e chiedi lo sconto. Gira voce che ti rinchiudi nel cesso. Davanti a uno specchio fai quattro mosse per crederti bello. Tutti questi beat scaricati da SoundClick. Per diventare qualcuno non basta un click, ma una critica degna di un nome, una cricca senza religione. Miglia zeta pizza acuto, stai muto, abbassa quella crasta, si sa che sei cornuto. Poche voglie del dito, tante voglie del tipo, con la lingua sul clito, lei mi chiama mito. Pixar rap, ormai è troppo tardi per tornare indietro. Spengo l'ennesima sega fumata fino al filtro. Anche mia nonna ha iniziato a fare rap. Schiaccio scrassi, fake al ritmo di dark dubstep. Perdi le parole e resti a bocca asciutta, come nelle carte re capa, come Gianluca. Le tue rime sono scontate più della roba cinese. Devi chiamarmi bomber come di Natale all'Udinese. Troppe ragazzine in fisso aperto light, e quella troia costa troppo come le Marlboro Light. Questa società è fottuta, guasta prima di nascere. Di bello vedo solo il tasso delle troie a crescere. Le donne anche senza cazzo ce la mettono nel culo. Se la tua c'ha il cazzo tieni sempre il culo al muro. E portami la tua amica con le tette più grandi. Siamo fatti l'uno per l'altro, c'ho due belle mani grandi. Kill the music, no catene, no anelli, no gangsta. No pistole o coltelli, forse li hai visti nei film. Troppo Quentin Tarantino, forse troppi bling bling. Ma mai visti da vicino, almeno quelli veri. Credi o non credi, io non credo che quello che dici si regga in piedi. Allora guardami, rompo il ghiaccio con lati. Continua a farti, non mi disturbi se vuoi fumbirarmi. Questo è il suono che proviene dal Sulcis. Attaccatevi alle casse come il cane le pulci. Rimango fresco pure se non vesto Gucci. Mentre poi antichi preistorici tipo Lucy. Fino su a Milano come i Ghiazzetta. Entro subito, la coda la lascio alla cometa. Finché non mi butti fuori con il vino che in circolo. Bevo tutto, ogni bicchiere sembra troppo piccolo. Rimani zitto muto, lo sai che non deludo. E scendo sulla cassa con le zeta pizzacuto. Il cane lupo come Link in tue light princess. I don't give a fuck your business. Kill the music, botte in faccia sopra i vostri musi. Spacchiamo voi poveri illusi, acuti ottusi. Non valete un cazzo, io vi calpesto con i miei bro. Siete in plagio, chiamami come cazzo vuoi. Niggi man, niggi la creme, questo è un cazzo, boy. Piglio fiato mentre spezzo il tempo. Tu, mentre pigli fiato stai già cadendo giù. Tutti quanti fanno i figli che morivano. Fanno i figli in giro e poi si fumano l'origano. Guarda come te lo porto esplicito. Fai il figo in giro ma sei un rachitico.